Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi a Destini incrociati si parla di contemporaneità dell'arte e accelerazione della vita. Di artisti come testimoni della realtà alla quale cercano di dare un nuovo senso e della città come fonte di ispirazione, ma anche come luogo di esposizione. Parliamo di incontri di talenti e di scontri di anime capaci di vivere il loro tempo. Siamo a New York. Gli anni Ottanta stanno per cominciare. Già a partire dalla metà degli anni 70, una folla di ballerini, attori, aspiranti artisti e musicisti si riversa da tutto il paese nella Grande Mela. Nella Lower Manhattan gli appartamenti costano ancora poco, non ci sono senza tetto e non si parla ancora di AIDS. La città è una frontiera urbana a totale disposizione di chi la abita. Questo mix selvaggio di musica, moda e arte dà origine a una nuova estetica newyorkese. A differenza degli anni 60, però, non c'è nessun obiettivo rivoluzionario. È come se l'affarismo di grandi eventi storici, ad esempio Woodstock, avesse strappato ogni pretesto politico. La fine dei 70 apre quindi le porte agli 80 che celebrano quello stesso materialismo cui i 60 si erano ribellati. Come descrive bene il film dedicato a uno dei due protagonisti di oggi. Ebbene, secondo te, quanto ci vuole per diventare famosi? Per un musicista o per un pittore? Non importa, famosi. 4 anni. 6 per diventare ricchi. Prima ti devi vestire come si deve, no? Poi devi farti vedere in giro con la gente famosa. Capito? Fare amicizia con le teste bionde giuste. Andare alle feste importanti, sì. Socializzare. Parola d'ordine, socializzare. Nell'era dell'immagine, negli anni del riflusso, come sono stati definiti gli anni Ottanta, gli altri sono importanti. La gente che si incontra per strada è il pubblico a cui affidare la propria singolare esperienza di vita e da cui trarre ispirazione. La città è il teatro dove agire e dove lasciare impresso il proprio passaggio. Già a partire dagli anni 50, l'artista americano è improvvisamente circondato da un'aura di divismo e celebrità. Deve vivere tra la gente, parlare alla gente, condizionarla. Anche l'industria lo intuisce e vi si affida. La Coca-Cola, per esempio, paga una consulenza a Joseph Albers per chiedere quale tonalità di rosso usare nel suo logotipo. Sono anni di entusiasmo, di trasformazione sociale, di consumi sfrenati e di nascita di status symbol. La quotidianità varia ad una velocità incredibile e si concentra nell'attimo, in un presente così puntuale da far quasi sparire qualunque concetto di tempo. Uno dei nostri due protagonisti vive il suo tempo e cerca di rendere l'arte un fatto quotidiano, popolare, prendendo spunti da episodi contemporanei per cercare di renderli, con l'attribuzione di un nuovo significato, un po' eterni. Stiamo parlando di Andy Warhol. Andy Warhol. Andy, do you feel that the public has insulted your art? No. Why not? Well, I hadn't thought about it. It doesn't bother you at all, then? No. Well, do you think that they've shown a lack of appreciation for what pop art means? No. Andy, do you think that pop art has sort of reached the point where it's becoming repetitious now? Yes. Do you think it should break away from being pop art? No. Are you just going to carry on? Yes. Anche se dall'intervista non si direbbe, Andy Warhol più che un artista è un comunicatore. Non sono le parole che gli interessano, ma i messaggi. La sua esperienza professionale comincia infatti nella pubblicità. All'età di 21 anni, nel 1949, si trasferisce da Pittsburgh a New York e inizia a collaborare come illustratore grafico pubblicitario per alcune riviste, cominciando a corrompere l'arte delle immagini con l'arte della comunicazione. L'intuizione di Warhol è che il consumo è emozionale prima che fisico e l'immaginario collettivo è fatto di colori che richiamano le emozioni, grammatica privilegiata sulla quale costruire messaggi. La sua arte è fatta di linguaggi pubblicitari, immediati, innovativi. Ribalta il rapporto tra società e arte stessa, sottraendo quest'ultima alla sacralità dei musei per rimetterla in mezzo alla gente. Cose dappertutto. Aspetta, guarda. Che c'è? Andy Warhol. Sì, quella è Andy Warhol. È una super chicca. È il più grande pittore del mondo. È una tarda mattinata di primavera del 1978. Siamo a Soho, New York. Una zona che alla fine degli anni 70, con la fioritura di piccole gallerie d'arte, comincia a diventare come Madison Avenue, luogo fino ad allora tradizionalmente dedicato alle mostre d'arte. Da una limousine scende Andy Warhol col suo agente. Un giovane ragazzo di 20 anni che sta passeggiando con un amico lo riconosce. È difficile non farlo, con quel look eccentrico, con quella parrucca bianca che nasconde malamente i suoi capelli scuri, vezzo d'artista, ma anche maschera fisica ed emotiva. Per questo ragazzo è l'occasione di una vita. Anche lui ha velleità d'artista, ma fino ad allora ha cercato di esprimere la sua anima quasi solo per gioco, sui muri della città. Come succede a tutti a quell'età, la bomboletta e i graffiti sono prolungamento dell'anima. Quella mattina in tasca ha delle cartoline disegnate da lui, documenti tangibili del suo talento. Andy Warhol è a qualche metro e sta entrando al WPA, celebre ristorante su Prince Street. Gli deve parlare. Ma su questo ragazzo, l'altro protagonista di oggi, ci torneremo più avanti. Per comprendere al meglio la portata di quell'incontro casuale, occorre fare un passo indietro sulla storia di Andy Warhol. È considerato un emblema della seconda metà del Novecento. Il 24 novembre del 69, una sua piccola opera è stata gettata dall'Apollo 12 sul suolo lunare a rappresentare noi tutti. Ancora oggi, la sua influenza è così grande che una rock band nata a metà degli anni 90 si fa chiamare Dandy Warhols. Nasce a Pittsburgh nel 1928. Figlio di immigrati slovacchi, ha un forte attaccamento alla madre, da cui erediterà la fede cattolica. Le sue origini gli lasciano in eredità anche un interesse particolare alle icone religiose, che Andy trasferirà nelle sue icone pop, con quella ritualità continua, seriale. Le sue icone veicolano però un altro tipo di religiosità, quella dello spirito del tempo, dell'americanismo, da Marilyn alla Coca-Cola alla zuppa Campbell. La sua voce è la voce di un'epoca che mette in discussione l'immagine della civiltà occidentale. If you had a choice, who would you rather be? I'd be Donald Duck. La catena di montaggio, tipica dell'America di quegli anni, entra nel suo gesto artistico e si condensa nella frase I want to be a machine, voglio essere una macchina. Anche il suo corpo è trattato come se fosse artefatto. Il suo sguardo stralunato, la figura dinoccolata, che sembra quasi non volersi imporre sulla scena per lasciarlo fare alle sue opere. Il tono di voce a metà strada tra il bambino e l'attore impostato. Una voce che sembra registrata, dissacrante, fredda, fatta per sedurre, ma anche per irritare. La voce che la TDK decide di utilizzare per la pubblicità delle sue videocassette. Aka, Midori, Ao, Gunjo Hiro, Kyudei. Imagine wo shigeki suru kara hi-fi. DDK videotape. Famoso come una rockstar, amico delle rockstar, vive l'arte nella sua accezione aggregante e socializzante. A New York ci si può imbattere in Andy Warhol quasi ovunque. Come dice lui, è malato di mondanità e andrebbe all'apertura di qualsiasi cosa, anche a quella di un asse da gabinetto. Le sue boutade sono famose, sono pensieri dalla forza distruttiva che scavano al di là dell'apparenza. Per sapere tutto su di me basta guardare la superficie dei miei dipinti, così si presenta al mondo. E nonostante il paradosso nelle sue parole, c'è sempre del vero. Andy apprezza tutto della realtà che lo circonda e attraversa il suo tempo assecondandolo, partendo dalla superficie per puntare il dito sul messaggio che vi sta sotto. Nell'era dell'immagine è difficile distinguere ciò che è vero da ciò che è falso, capire cosa è cronaca e cosa è fiction. Warhol reinterpreta la verità dei fatti senza dare giudizi. Aggiunge solo un pizzico di emotività alla pura informazione. Well, I watch two televisions at one... Io guardo due TV allo stesso tempo. In una i film e nell'altra le notizie. Le notizie sono un ottimo esempio di show drammatico. Quello che succede intorno a lui è spunto creativo, soprattutto se riporta il tema della morte. Si pensi alla tragica fine dei suoi personaggi come Marilyn Monroe, James Dean, la vedova Jackie Kennedy, la stessa Elizabeth Taylor, che viene raffigurata solo quando si diffonde la notizia che è molto malata. Le foto che trasforma in opere sono prese realmente dai giornali o dalla TV per accentuarne il carattere drammatico. La foto dell'assassinio di Kennedy, l'incidente stradale, l'esplosione nucleare o la sedia elettrica sono gli esempi più eclatanti di come l'orrore di una fotografia lasci il posto, dopo l'intervento di Andy, all'emotività. La notizia tragica diventa partecipazione emotiva per chi la guarda. La serialità, la ripetizione quasi ossessiva delle immagini, delle sue icone, dei suoi dipinti, sono un modo di celebrare l'America di quegli anni, dove i beni di largo consumo sono ormai alla portata di tutti, dove il consumatore più ricco e quello più povero possono bere la stessa Coca-Cola, mangiare lo stesso hot dog, vedere lo stesso programma televisivo. Più una cosa è uguale, più è americana. L'America degli anni 60 è tutta volta allo sfruttamento delle merci e della loro promozione attraverso i media. Non è un caso che il mondo da cui arriva Warhol sia quello della pubblicità, che continua a frequentare sia da ideatore che da attore, anche al fianco di grandi personaggi del periodo, come in questo caso con il pugile Sonny Liston per lo spot di una compagnia aerea. Of course, remember, there's an inherent beauty in soup cans that Michelangelo could not have imagined existed. Talkative Andy Warhol and Gabby Sonny Liston always fly Braniff. They like our girls, they like our food, they like our style. And they like to be on time. Thanks for flying Braniff, fellows. When you got it, flaunt it. Braniff International. When you got it, flaunt it. Warhol sperimenta tutto fin da bambino. All'età di 6 anni prende a collezionare fotografie di star del cinema. Raccoglie e accumula anche professioni. Nella sua vita fa il grafico, il pittore, il fotografo, lo scultore, l'attore, il produttore televisivo, cinematografico, discografico, il direttore e l'editore di riviste. Ha infinite ambizioni. Dopo l'esordio come grafico pubblicitario, crede di poter fare qualsiasi cosa, persino di essere meglio dell'allora presidente degli Stati Uniti. Io credo che Andy sarebbe meglio di Nixon. Beh, lo sarei senz'altro. Mr. Warhol accetterebbe di candidarsi alla presidenza? Certamente lo farei. Metterei tappeti per le strade e darei i soldi a tutti. Alla fine del 1963 si trasferisce al 231 East sulla 47esima strada, in una ex fabbrica di cappelli. Sulla facciata dell'edificio campeggia una vecchia scritta Factory. Sembra quasi fatta apposta. Warhol se ne appropria e comincia da lì la sua esperienza di laboratorio di industrializzazione dell'arte. C'è bisogno di contaminazione, di una nuova filosofia dell'arte. Dov'è il business, l'arte migliore? Concetto col quale si scontrerà anche l'altro protagonista di oggi. L'idea gli viene quando è in ospedale dopo l'attentato del 1968 e vede che il suo staff continua a produrre cose anche senza il suo contributo. Insomma, scopre di avere un'azienda. La Factory produce anche gruppi rock, come i Velvet Underground di Lou Reed. Sul loro primo album del 1967 c'è un dipinto di Warhol, una banana che nella prima versione si può addirittura sbucciare in pieno stile sperimentale della Factory. Nel gruppo dei Velvet Underground c'è anche Krista Paffgen, in arte Nico, inserita a forza nell'organico dal pigmalione Andy. Certamente non una cantante straordinaria, ma una modella dalla vita interessante, mondana, come piace a Warhol. Amante part-time di Jim Morrison, ragazza madre di un figlio avuto da Alain Delon e infine comparsa nella dolce vita di Fellini al fianco di Mastroianni nei panni di se stessa quale simbolo dell'effimero mondo della moda. Nico! Marcellino, bruttino, come stai? Cattivo, froci, bene. Dove vai? A Bassano di Succi, in un castello del mio fidanzato. Perché non mi ci porti? Sì. Senti, ti ha cercato paparazzo, voleva farti un servizio su Jardin des Modes. Sì, ma io non faccio più fotografie di moda da un anno, basta. Nicolina! Ecco Nico! La macchina! Nicolina, siamo qua! Avete posto per il mio amico e me? No, sali sulla macchina dietro. Oh, che dolore! Allora, on se voit au château. Va bene, ciao! Dalla Factory esce anche la rivista Interview, che da giornale underground nelle mani di Andy si trasforma in rivista internazionale di tendenza. Qui documenta le sue conversazioni, un luogo di incontro per le personalità dell'epoca, rockstar, attori, gente di spettacolo e dell'arte. Andy utilizza la copertina come merce di scambio con lo Star System. Gli piace distribuire la sua rivista mentre passeggia su e giù per Madison Avenue. Una volta decide di firmare copie da distribuire ai fan nella vetrina del negozio di Fiorucci sulla 59esima strada. Cosa c'è di più vicino alla sua concezione dell'arte di un negozio come quello dello stilista italiano? Le persone più famose sono quelle che hanno il loro nome su un negozio. Di loro sono veramente geloso. È questo che scrive nei suoi diari, come ricorda Elio Fiorucci. I diari di Andy Warhol, ci troverete scritto, sono stato nel negozio di Fiorucci, c'è tutto quello che mi piace, tutto è di plastica, tutto è colorato, devo assolutamente tornare. Infatti divenne affezionatissimo al negozio Fiorucci. Andy annota tutto, cataloga ogni cosa. È un collezionista accanito non solo di arte e di oggetti del folklore americano, ma di ogni sorta di futilità. Fotografa ogni cosa e stiva tutto il materiale che raccoglie in scatole che chiama capsule del tempo. Colleziona anche parrucche, ne ha più di 100, tutte rigorosamente tra il biondo platino e il bianco, una specie di bollino di garanzia del suo essere personalità e personaggio al tempo stesso. Tutto ciò che esce dalla Factory serve a far circolare il suo nome, che ormai è un vero e proprio brand. La visibilità che Andy ottiene senza servirsi di un'agenzia di pubbliche relazioni è incredibile. Di fatto la Factory è la prima corporation artistica moderna. Anche quando fa semplicemente l'attore, come nel film The Driver's Seat, accanto a Liz Taylor, pur recitando una parte, non riesce ad essere diverso da com'è in realtà. The King's an idiot. You can take my word for it. The rebels that toppled him from his throne, whatever it is he sits on, did his country a service. La Factory diventa uno spazio ideologico dove molte nozioni sulla pop art si trasformano in stile di vita. Il gruppo forma un nucleo che stabilisce un linguaggio comune, uno stile, diventando il luogo ideale per accogliere nuovi talenti. Questo lo sa anche il ragazzo che quella mattina di primavera del 1978 lo vede entrare nel ristorante a Soho e cerca in ogni modo di avvicinarlo. La Factory si sperimenta anche nel cinema, con Sleep, Kiss, It, Empire, solo per citarne alcuni. I suoi film non fanno soldi, ma fanno notizia. Provocano scandalo e mettono Andy in contatto con il mondo cinematografico. Dall'incontro con Eddie Sedgwick, attrice e modella che gravita intorno alla Factory, nascono Ciao Manhattan e The Kitchen. E che dovrei fare in un tuo film? Essere te stessa. Il tema è la sua quotidianità. Mentre Eddie si trucca, si cambia, risponde al telefono, mentre vive la sua giornata. L'idea è di fissare in un ritratto un personaggio che compie un'azione banale, ma che per Warhol ha un importante significato. Eddie diventa la sua superstar. Andy, dopo averla incontrata, pensa addirittura di lasciare la pittura per dedicarsi interamente al cinema. Eddie è l'emblema della Factory Girl, ma anche dell'ambiente newyorkese che si riunisce intorno a Warhol con i suoi pregi e difetti, bella e fragile, ma dalla fine sfortunata. Tra i personaggi che si muovono intorno a lui c'è anche David Bowie, che proprio dopo l'incontro con Andy matura l'attrazione per l'eccentricità. Andy Warhol e il mondo dello spettacolo, non riesco proprio a distinguerli. E questa è la frase emblematica del loro rapporto scritta nella canzone dedicata a lui. Like to take a cement fix, biggest standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. Destini incrociati. Destini incrociati a New York, alla fine degli anni 70. dove su quasi 1 milione di artisti in America, 90.000 studiano e lavorano proprio qui, nella Grande Mela. L'arte è un business. Andy Warhol con la sua Factory ne è uno dei maggiori esponenti. Un giorno di primavera del 1978, un giovane aspirante artista incontra per caso il maestro della pop art e da lì ha inizio la sua nuova vita. Andy Warhol è la persona giusta da incontrare se vivi a New York, se hai aspirazioni d'artista, se senti di voler dire qualcosa al mondo. Tanta fortuna capita una volta nella vita. Così quella mattina, Jean-Michel Basquiat, quando lo vede scendere dalla limousine ed entrare in un ristorante di Soho, decide di giocarsi tutto. Entra nel locale, elude la sorveglianza e si presenta al tavolo di Andy Warhol. Difficile passare inosservati se sei un ragazzo nero, con un'esplosione di capelli in testa che si dirige verso un tavolo di gente famosa. Eppure ce la fa. Una volta lì, prende coraggio ed estrae dalla tasca quei cartoncini disegnati da lui, dove annota con segni grafici e con parole quello che gli si agita dentro. È il suo momento. Andy è lì, e con lui il suo agente, Bruno Bischofberger. Accidenti, non ci hai lavorato molto, posso dartene 5. Vai Bruno, tu sei ricco. Forse devi parlare con Bruno. Lei neanche ci lavora sulle sue cose. No, non è quanto si lavora su una cosa. Quello che conta è quanto riesci a farti pagare. Io prendo 10. Se nel 1970 c'erano circa 200 gallerie a New York, a metà degli anni 80 il loro numero si è triplicato. L'arte vive un momento d'oro, o meglio, più che l'arte è il commercio. Jean-Michel Basquiat incontra il suo destino in un particolare momento storico e la sua vita e il suo percorso ne sono certamente lo specchio. Governor, are you prepared to take the constitutional oath? I am. If you place your left hand on the Bible and raise your right hand and repeat after me, I, Ronald Reagan, do solemnly swear. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. Durante il primo mandato Reagan, l'economia americana riesce a risollevarsi dalla recessione di fine anni 70. C'è una strana sintonia tra il programma della Casa Bianca e l'emergere di una nuova cultura aristocratica, uno stile aggressivo di ostentazione della ricchezza. La cultura dei soldi è spinta a comprare arte come forma di investimento al pari di titoli o di azioni. Le case d'asta e le gallerie fanno presto ad accorgersi che quello dell'arte americana è un vero e proprio mercato. Collezionare arte è una forma di avidità socialmente encomiabile nell'America di quegli anni. L'avidità è giusta, dice Michael Douglas in Wall Street di Oliver Stone, un film che descrive perfettamente lo spirito dell'epoca. Lei che cosa ci vede? Purezza, innocenza. Un migliaio di dollari buttati al vento, secondo me. Beh, credo che la carriera di esperto d'arte le sia preclusa. Lo abbiamo pagato 400.000 dollari alla mostra d'arte contemporanea il giugno scorso. Jean-Michel, all'epoca, è un giovane ragazzo di origini haitiane di appena 20 anni, nato a Brooklyn e con un talento particolare nel condensare in frasi ad effetto i suoi pensieri. Alla fine degli anni 70, con la diffusione di colori acrilici a spruzzo, si diffonde il graffitismo. Jean-Michel non vuole far parte di quel movimento. Lui non è un ragazzino che imbratta i treni, lui è un artista a tutti gli effetti. Comincia a disegnare i muri di Manhattan con frasi criptiche, spunti per una nuova filosofia della vita. Il suo tag, ovvero la sua firma, è SAMO, un acronimo che sta per Same Old Shit, la solita vecchia merda. I giochi di parole che lascia in giro per la città e che verranno poi inseriti anche nei suoi quadri diventano il suo marchio di fabbrica. In un'intervista al Voice, che gli chiede cosa significhino i suoi writings, risponde: la città è infestata di rigidi pseudo-borghesi che ostentano soldi che non hanno e status symbol. E la cosa mi distrugge. È come se andassero in giro col cartellino del prezzo attaccato alla testa. La gente dovrebbe vivere in modo più spirituale. La storia di Basquiat non è la storia di una vita, ma di uno stile di vita, in un preciso momento della seconda metà del XX secolo. Well, I'm just a modern guy. The clothes I've had. nasce il 22 dicembre del 1960. A scuola è bravissimo, disegna fumetti, ha delle sue idee originali. Al liceo va alla City as School, una scuola per ragazzi dotati. Secondo il principio ispirativo della scuola, la città ha un forte potere educativo. Così gli studenti vengono mandati a fare lezione in posti come il Museo d'Arte Moderna o il Planetario. Facile immaginare come la mente brillante di Basquiat possa reagire a tutto questo. Nel 1978 lascia la scuola e la casa del padre. Abbraccia la vita di strada, che adesso è la sua casa. Alla strada deve la sua sensibilità. Uscivo con i miei compagni di scuola e altri ragazzi. Bevevamo birra e Ballantine, facevamo scritte sui muri, lanciavamo le bottiglie, rubavamo le parrucche alle signore. Facevamo le cose che fanno tutti i ragazzi di quell'età. Tra una serata a bere con gli amici e le prove per il suo gruppo musicale, Basquiat comincia a guadagnarsi da vivere vendendo delle cartoline disegnate da lui. E proprio nel tentativo di venderne una ad Andy Warhol, cambierà il corso della sua vita. La sua band, dove suona anche l'attore Vincent Gallo, prende il nome da Grey's Anatomy, libro che viene usato ancora oggi dagli studenti di medicina e che influenza molto Basquiat. La musica è importante. È un'altra forma artistica dove può esprimere quello che ha dentro. Adora Miles Davis, vorrebbe essere il Charlie Parker della pittura. Nei suoi disegni non c'è mai la stessa nota, lo stesso segno. È un po' come nel jazz. Suona nei locali di Manhattan che fioriscono in quegli anni, come il Mad Club, la versione rock del più famoso Studio 54. Un loft dove si mescolano punk rock, designer, pittori dilettanti e turisti. 6 mesi dopo la sua apertura, il People scrive: un'impalpabile folla newyorkese di modelli, punk e gente all'ultima moda ha scoperto il suo nuovo prato dove ostentare il suo chic maniacale. È il Mad Club, discoteca folle immersa fra i capannoni di Lower Manhattan. Per Jean-Michel, il Mad Club è un po' casa. Ci sono i suoi amici, c'è la musica, ci sono le celebrità come Brian Eno, Sid Vicious, Iggy Pop, David Bowie. Eppure il suo incontro decisivo lo fa per strada. La sua audacia nel presentarsi ad Andy Warhol, il suo indiscutibile talento e il periodo storico danno la sterzata definitiva alla vita di Jean-Michel. Gli anni Ottanta sono gli anni dell'ascesa, un'ascesa vertiginosa accompagnata da una popolarità senza eguali e da una disponibilità economica mai vista. Sorretto dal suo pigmalione Andy Warhol, Basquiat decide di abbandonare definitivamente Samo per diventare semplicemente Jean-Michel Basquiat. Da quel giorno, sui muri di Manhattan, compare la scritta «Samo is dead». E anche quando, a carriera già avviata, un giornalista gli chiederà cosa significassero quelle scritte, preferisce non parlarne. Sarebbe troppo imbarazzante ricordarlo. Erano cose prese dalla mia vita. Ero un ragazzino. La sua andatura strascicata, un po' da bambino, un po' da barbone, il modo di parlare balbettante, la capigliatura che esplode sulla sua testa, sembrano quasi i segni anatomici di una vicinanza già scritta nel DNA con Warhol, che della sua camminata, della sua voce, dei suoi capelli, ha fatto il suo manifesto. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo a New York. Gli anni Ottanta sono alle porte. Un giovanissimo Jean-Michel Basquiat incontra per strada Andy Warhol e Bruno Bischofberger, il suo agente. L'occasione di mostrare e vendere al maestro della pop art alcune cartoline disegnate da lui si offre come la chiave di volta di un'esistenza che mostra già tutti i segni per essere straordinaria. Allora, Samo. Samo. Qual è il tuo vero nome? Jean-Michel Basquiat. Beh, mi sembra un nome già famoso. Guidato dall'ambizione, Jean-Michel comincia a farsi vedere negli ambienti newyorkesi che contano. Nel 1981, Annina Nosei, una famosa gallerista di origini italiane, propone a Basquiat un posto dove lavorare per produrre le opere da esporre in una mostra collettiva, la Public Address. Basquiat accetta senza pensarci troppo, come ricorda in un'intervista. Mi offrì uno studio. Era la prima volta che avevo un posto dove lavorare. È ovvio, accettai. Non pensai subito agli svantaggi. Il posto era proprio sotto la galleria. Così Annina portava sempre i collezionisti lì sotto. Non avevo molta privacy. Però ero giovane ed avevo un posto dove lavorare. Era la prima volta che ne avevo uno tutto mio. Sempre nel 1981, dopo essersi mostrato finalmente al grande pubblico, grazie al coraggio avuto nell'incontro con Andy Warhol, la Rizzoli USA e Fiorucci, già amico di Warhol, decidono di girare un film con lui come protagonista. Il titolo è Downtown 81. Sono un artista. E di solito quando dici questa cosa alla gente ti chiedono subito: ma cosa significa? Ed io rispondo: extra large. La sua prima mostra personale arriva nel 1982, in contemporanea a Modena e a New York. Jean-Michel si sente pronto per poter fare qualcosa anche con Warhol. Bruno Bischofberger, l'agente di Andy incontrato quel giorno al ristorante, segue da vicino l'evoluzione del ragazzo di origini haitiane finché riesce a strapparlo dalla gallerista italiana per fargli da agente. L'idea di portarlo alla Factory per cominciare a fare delle opere collettive viene a Bruno quando vede Jean-Michel disegnare con sua figlia Cora di soli 4 anni. Lo stile primitivo della bambina, con lo stile istintuale altrettanto primitivo di Basquiat, si fondono così bene che arriva l'intuizione di mettere insieme le due menti più fervide di quel periodo. La gente vuole dirti come vivere, cosa dire. E tu cosa puoi fare? Devi essere positivo. Basquiat è positivo. Troppe cose stanno capitando nella sua vita per non esserlo. In quegli stessi anni avviene l'incontro con Madonna, la material girl all'epoca ancora sconosciuta, ma come Jean-Michel sente che ha molte cose da dire. Hanno una relazione di qualche mese. Due anime leggere e belle che decidono di fare un piccolo pezzo di strada insieme per raggiungere ognuna il proprio grande successo. La vita sembra avere un nuovo sapore, sia dal punto di vista professionale che personale, per Jean-Michel. Il primo giorno nella Factory è elettrizzante. Warhol scatta subito delle foto con la sua Polaroid di loro due insieme. Basquiat, emozionato come un bambino, chiede di poterne avere una e corre nel suo studio. Un'ora e mezza più tardi si presenta con un quadro di 1,5 x 1,5 m, con i colori ancora bagnati, dove ci sono sulla sinistra Warhol nella sua tipica posa con il mento appoggiato sulle mani e Jean-Michel sulla destra con la capigliatura arruffata come la porta a quell'epoca. Il titolo? Dos Cabezas. Andy, dopo aver guardato il quadro, esclama: «Sono geloso, è più veloce di me». E amore. Le collaborazioni si susseguono numerose. La scintilla scattata quel giorno al ristorante, quando Jean-Michel ha venduto a Warhol delle sue cartoline, trova adesso la sua piena realizzazione nelle opere collettive volute dall'agente Bruno. Di solito Basquiat interviene per secondo, fondendo la sua iconografia spontanea, espressiva e carica di affettività con quella di Warhol. I temi di Basquiat sono i re, gli eroi, la strada. Nella sua firma adesso c'è una corona presa a prestito dal marchio della King World Production che compare alla fine della sigla delle simpatiche canaglie. Al volante di una Ford, vecchio tipo cabriolet, la mia sta cominando spenchi. Il 1983 è il momento di mostrare al pubblico il lavoro che nasce dall'incontro di questi due artisti. Il manifesto della mostra ritrae Warhol e Basquiat come protagonisti di un incontro di boxe. I capelli di Basquiat cominciano ad assumere sempre più la forma di una corona, come quella della sua firma, più orientati verso l'alto, meno selvaggi. I suoi abiti adesso sono firmati. Una delle caratteristiche di Jean-Michel sono i completi di Armani sporchi di vernice. Stare a fianco di Andy, lavorare con lui, parlare con lui e respirare la sua storia, per Jean-Michel è un premio enorme. Warhol è ipnotico. È tutto quello che Jean-Michel ha sempre sognato di diventare. E Warhol, dalla sua, è attratto dall'energia di questo giovane ragazzo talentuoso e lo annota nei suoi diari. Con Jean-Michel andati da Jannas e ci siamo fatti fare le unghie. Noi due saremmo proprio una bella storia per Vogue. Pedicure $30. In taxi da Lidia $5. Fatto gli esercizi con Jean-Michel che mi ha portato un po' dei suoi capelli, recisi e applicati ad un casco. bellissimo. Ma l'ascesa di un giovane ragazzo di appena 24 anni nel mondo dell'arte newyorkese porta con sé anche un lato oscuro. Le droghe sono all'ordine del giorno e con esse anche certe manie di persecuzione. La sua famiglia è Andy ormai. Ma quando nel 1983 il New York Times lo definisce la mascotte di Warhol, per Jean-Michel non ci sono più punti di riferimento. Lui non è la mascotte di nessuno. Perché gli altri pensano questo? Passano un paio d'anni e lo stesso New York Times, nell'85, gli dedica la copertina. A questo punto il suo successo è davvero consacrato. Ma qualcosa non va come dovrebbe. Alla giornalista che scrive l'articolo sulla sua vita, dice: ho dei soldi. Faccio i miei quadri migliori, ma vivo del tutto recluso. Lavoro un sacco, prendo un sacco di droghe e sono orribile con la gente. No, per favore, no, se ne vada. Bruno, sono io. Non mi riconosci? Ah, sei tu. Che giornata. Certo che sono io. Sto così male. Che succede? Non hai ancora saputo. Andy è morto. Aspettami. Andy Warhol muore il 22 febbraio del 1987 in seguito a un intervento chirurgico alla cistifellea. Per Basquiat la notizia è un colpo al cuore. Con Andy se ne va un pezzo di lui, di quello che è stato e che è diventato. Le sue tele si riempiono di demoni e di divinità malvagie. La realtà comincia ad assumere una forma mostruosa. La sua arte, la sua leggerezza da genio bambino, la sua energia cominciano a lasciare sempre più spazio alla droga. La sua stella si spegne dopo aver brillato troppo poco nel cielo dell'arte il 12 agosto del 1988 per un'overdose. In base alla stima fatta da Christie's, Basquiat lascia 917 disegni, 25 album di schizzi, 85 litografie e 171 dipinti. È lì dentro che ci aspetta ogni volta che vogliamo rivederlo. È lì che il suo sole brilla ancora. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.